Non leggere più niente. Chiuditi a riccio. Ma se proprio non ce la fai, ti consiglio Dove nessuno ti troverà, di Alicia Gimenez Bartlett, casa editrice Sellerio. Costo del libro 16 euro. Siamo durante la guerra civile in Spagna. Un giornalista deve fare un servizio sulla famosa Pastora. Si parla di una storia vera, di una ermafrodita che durante la guerra civile spagnola ha partecipato alla resistenza come partigiano. Nata come donna, come la Pastora, ha dismesso le vesti di femmina per partecipare alla liberazione della terra di Spagna e alla liberazione quindi anche del proprio corpo. Quindi è un libro bellissimo che racconta la trasformazione del proprio io in una cornice totalmente storica, per sapere anche un po' di più di quella che è stata la rivoluzione, la guerra civile in Spagna. La paura anche di finire nelle mani della Guardia Civile. Si racconta di posti anche molto belli, le montagne a sud dell'Ebro, tra la Catalogna e l'Aragona, per lungo tempo, dopo la fine della guerra civile, rifugio disperato degli ultimi resistenti. Ed è qui appunto che viveva la Pastora, che poi diventa il partigiano. Un libro bellissimo, che come ce ne sono pochi, che riescono a unire perfettamente la storia con la trasformazione anche politica del proprio corpo e di prendere coscienza di sé e di chi si è, in una forma in cui la politica aiuta alla liberazione del sé e di sé. Lo consiglio vivamente, è perfetto per l'estate. Non leggere più niente. Chiuditi a riccio. Ma se proprio non ce la fai, ti consiglio Ignorare l'assenza, la letteratura palestinese nell'immaginario italiano, di Valeria Roma. Prefazione di Pietro Basso, Meltemi Linee. Un libro fondamentale per capire le voci delle palestinesi e dei palestinesi che hanno attraversato o che attraversano il nostro paese, cioè l'Italia. Un'antologia letteraria che lascia riemergere dall'oblio della censura le storie appunto del popolo palestinese e lo fa con personaggi storici della Palestina, della poesia, della letteratura, ma anche personaggi che invece non sono conosciuti, parlando della vita collettiva, delle aspirazioni individuali, di che vuol dire vivere nella diaspora, di che vuol dire ricordare la terra di Palestina, di che vuol dire non poter tornare più dai propri antenati, dai propri parenti, ricordare l'infanzia, la guerra, l'occupazione, il colonialismo. Devo dire, un libro bellissimo, per me fondamentale. Non sapevo minimamente dell'esistenza di tutta questa letteratura o di tutte queste persone che sono in diaspora in Italia e vengono dalla terra di Palestina. E attraverso le sue parole, i ricordi, i profumi sono bellissimi della Palestina. Lo consiglio tantissimo. Un'antologia anche molto economica perché costa solo 20 euro. Oh, mi raccomando, non leggere più niente. Chiuditi a riccio, ma se proprio non ce la fai, likewise, qui alla voce Pincro ti consiglia di leggere per quest'estate L'albero madre, alla scoperta del respiro e dell'intelligenza della foresta di Susan Simard, che era uscito per gli Oscar Mondadori nella sezione dei saggi. L'edizione originale del 2021 è uscita in economica nel 2023, quindi non è un libro nuovissimo, anche se in questa versione economica sta girando forse un po' di più. Questo libro l'ho letto qualche settimana fa, perché in questo periodo sto leggendo molta saggistica che riguarda la natura e particolarmente in realtà le piante e gli alberi. E quindi quando ho visto questo libro ho pensato di leggerlo. Susan Simard è una scienziata, è una pioniera nel campo della comunicazione dell'intelligenza delle piante, e in questo libro, che è una sorta di autobiografia, lei racconta la sua vita e come, insomma, ha avuto le intuizioni che poi ha dimostrato scientificamente di come le piante comunichino tra di loro. E attraverso cosa comunichino tra di loro. Quindi nel libro è narrato anche tutte le sue, sono narrate anche tutte le sue difficoltà a poter portare avanti le sue intuizioni che in qualche modo rompevano con un certo paradigma che è quello della natura in competizione per le risorse, dimostrando nel corso di tantissimi anni e tantissimi esperimenti che invece la natura, anche la natura e soprattutto gli alberi, più che in competizione sono in collaborazione e sono collegati tra di loro da una grandissima rete di comunicazione che è data dai funghi. Il libro quindi è molto molto interessante, ci porta a una prospettiva molto diversa su come pensiamo le piante, come pensiamo anche il nostro rapporto con la natura, cosa pensiamo che sia in qualche modo l'intelligenza e come questa si esprima. Questo lo trovo davvero importante, riuscire a mettersi da un'altra parte e guardare le cose da un punto di vista diverso. Quindi questo è il libro che vi consiglio di leggere per questa estate. Se, siccome è sempre likewise, siamo sempre, insomma, un po' appassionati di musica, direi che la situazione ideale per leggerlo è un po' immersi nella natura, in qualche modo sicuramente gli restituirebbe ancora più fascino stare seduti ai piedi di qualche grande albero e leggerlo, ma se invece volete un accompagnamento musicale, un disco che potrebbe starci molto bene è quello di Bex Burch, There is Only Love and Fear. Lei è una compositrice e percussionista, e quindi ci sono percussioni in legno, un disco molto bello che ci sta molto bene. Siccome ho già sforato i minuti a disposizione, saluto tantissimo Tabula Rasa, grazie per questa opportunità e questa idea. A presto, ciao a tutti. Chiuditi a riccio, non leggere più niente. Ma se proprio non ce la fai, segui i consigli di Ror per viaggiare lontano, anche rimanendo ferma. Babel 17, Babel 17, Samuel R. Delany, edizione Urania, 1966. Samuel R. Delany, scrittore nero, gay, poliamoroso, secondo le sue definizioni, è la prima figura, la prima voce nera nella letteratura di fantascienza americana, che vince il prestigioso premio Nebula nel 1967 proprio grazie a questo racconto. La fluidità della sua identità, della sua sessualità e della sua vita si fondono all'interno degli scritti di questo autore, che insomma vi invito a scoprire se non lo conoscete già. Babel 17 racconta, il romanzo racconta in sostanza la storia di questo codice chiamato dall'esercito Babel 17 che degli invasori alieni utilizzano per comunicare a dei sabotatori quello che devono fare, in quale momento, appunto sul pianeta dove in parte si svolge la storia e su altre astronavi. Non riuscendo a decifrare questo codice, decidono di affidare la sua comprensione alla capitana Ryder Wong, capitana di un'astronave, linguista e poeta di fama intergalattica, che per prima cosa scoprirà che questo non è un codice crittografato, ma una vera e propria lingua, e da lì comincerà la sua investigazione. Babel 17, diciamo, fonda la sua forza su una teoria di linguistica, l'ipotesi di Sapir-Whorf, o altrimenti conosciuta come ipotesi della relatività linguistica. Questa teoria in sostanza afferma che lo sviluppo cognitivo è legato e influenzato dalla lingua che parliamo e che apprendiamo. Quindi la lingua non è solo uno strumento di espressione del pensiero, ma la lingua e il modo in cui ci esprimiamo determina anche il nostro modo di pensare. Diciamo, la forma di determinismo linguistico, quindi la forma forte di questa ipotesi, è stata in parte ampiamente confutata, ma la sua forma più debole, in qualche modo più leggera, in realtà è molto affascinante. E vi invito a riflettere su quanto cambiare le parole, saper nominare le cose in modo diverso influenzi poi il nostro modo di pensare. Pensarle e di capirle meglio. Non posso non lasciarvi anche con un consiglio per questa lettura di una fantastica space opera con una space opera musicale, The Rubaiyat of Dorothy Ashby, album del 1970 di Dorothy Ashby, jazzista, arpista, sperimentatrice nera, che in questo caso utilizza il koto, arpa giapponese, appunto per suonare in questo disco. Il sottotitolo è molto eloquente, composizione originale ispirate alle parole di Omar Khayyam, poeta, filosofo, astronomo, pensatore, simbolo, diciamo, figura iconica della cultura persiana, nato e appunto che ha operato tra il 1000 e il 1100. Buona lettura.